facciano domani. Se invece mettessero più regole, cioè ad esempio i famosi vendite allo scoperto, perché le hanno vietate per un certo periodo di tempo. Spieghiamo cosa, un sacco di danni, spieghiamo cosa sono le vendite allo scoperto, perché credo che non tutti lo sanno. Le vendite allo scoperto sono la possibilità di vendere dei titoli di cui uno non è proprietario. Poi ci sono le vendite, però deve avere almeno il possesso presso un intermediario. Poi c'è il naked short, cioè le vendite scoperte nude, queste da noi proprio non possono essere fatte, che addirittura tu puoi avere la possibilità di vendere ciò che non hai, proprio non ce l'hai, neanche il possesso. La signora chiede: perché non mettiamo più regole? Perché non vietiamo le vendite allo scoperto? Perché io le rispondo così: perché è come la Tobin Tax non globale, perché ho fatto degli articoli, ma non perché li ho fatti io, perché ha un effetto psicologico sul primo periodo, cioè all'inizio riduce le vendite, perché tu non puoi vendere le banche se non hai il titolo, ok? Ci siamo? E se io non ho il titolo, non posso, o lo vendo materialmente, quindi vendo proprio io, nel senso che non, però dobbiamo spiegare perché funziona. Allora, la vendita scoperto è una scommessa al ribasso, cioè se tu hai un titolo che vale 10 e pensi che quel titolo lì vada a 5, se tu lo vendi allo scoperto vuol dire che, senza avere la proprietà di quel titolo ma prendendolo a prestito dall'intermediario, tu vendi quel titolo e hai una proposta in acquisto a 10, ma quando li consegni andando a 5 tu le consegni a 5, quindi ci guadagni la differenza, 10 meno 5 è 5, ok? Senza però avere la proprietà del titolo. Questo è un meccanismo di scommettere che il mondo vada male, che vada tutto a catafascia, eccetera. Discorso di prima, uno guadagna anche con i ribassi. Questo meccanismo, la signora dice, vietiamolo, perché se io elimino questa parte di attività, in qualche modo elimino la propensione a vendere senza avere il titolo, perché io posso anche avercelo un titolo, nessuno mi può vietare di venderlo, se io lo voglio vendere lo vendo, cioè questo credo che sia d'accordo, se ho un oggetto, se voglio venderlo lo vendo, se non ce l'ho e gioco soltanto sulla scommessa che vada al ribasso, perché così in questo modo guadagno su qualcosa che non ho, scommettendo sul ribasso, la signora dice vettiamolo, e io dico: ma è come la Tobin Tax limitata. Perché? Perché guardi che attraverso il discorso delle tecnologie lei vieta le vendite allo scoperto sulle banche, ma shortano attraverso i CDS sulle banche. Allora facciamo la vendita di vieto allo scoperto sui CDS. Ho capito, ma allora shortano le vendite sui titoli di Stato che sono in possesso, che sono in pancia delle banche. Allora, vietiamo la vendita scoperto dei titoli di Stato, ma allora shortano il future sul titolo di Stato, che è globalmente su tutto. Va bene, ma questa blocca la borsa, blocca la borsa. Cioè, io quello che voglio, il messaggio su questo, io sono. Vabbè, uno non fa seria. Io su questo sono assolutamente. Sì, ma sono d'accordo, ma è talmente per la tecnologia sviluppato che lei alla fine dovrebbe creare 8500 divieti, non ce la fa. Cioè, lei sta a un livello a valle. Se lei va sulla concentrazione degli scambi, lei incomincia ad andare su un livello a monte. Cioè, tutte queste imposizioni, che sono facili perché basta, tassiamo le transazioni. E io nel momento in cui ho cominciato a parlare la concentrazione degli scambi, quell'altro ha detto tassiamo le transazioni, no la speculazione, vince quello lì al bar, no? Perché ormai la finanza e l'economia è entrata, è come se fosse una partita di calcio. Ora io sono per la, anche qua sto tentando nei limiti della mia misera intelligenza di darvi qualche spunto eccetera, quindi sono d'accordo nel tentare di spiegare, però poi le cose comunque non è che possono essere troppo semplificate, perché se no non si capisce niente. Già secondo me, non so quanto abbiate capito, però il problema è anche quello che il mondo della finanza, il mondo dell'economia con lo spread è entrato nel bar, e al bar non è che vince Carlini Vittorio che dice no aspetta, c'è la concentrazione degli schemi, che vale, quanto che dice no, basta, via la speculazione, la tassazione, Tobin tax. Chi è che vince tra i due la discussione? E vince con l'altro, perché anche a livello di comunicazione io ci metto mezzo, un minuto per introdurre il tema, quell'altro ha già detto delle pseudo, ha già dato delle pseudo risposte in un minuto. Il problema è che non funziona così. Il problema è che a monte di questo discorso c'è per esempio la MiFID. Allora, se noi vogliamo essere veramente anti-speculazione, andiamo a contrastare il meccanismo a monte che ha permesso la proliferazione di tutta questa roba qua. Io sono convinto che se si tornasse alla concentrazione sugli scambi, anche su determinate aree di titoli, avremmo molti meno casini. Io ne sono convinto. E non ci sarebbe bisogno di divieti, tasse contro tasse, eccetera. La MiFID, tra l'altro, l'hanno fatta con l'intento di rendere più trasparente il mercato. Tutto è fatto con l'intento di rendere più trasparente il mercato, signora, ma funziona sempre così, no? Scusa. Ma tutto è fatto con l'intenzione di migliorare il mondo, no? Perché lo smantellamento sistematico di tutto quello che è la regolamentazione del sistema bancario americano, ricordatevelo, fatto dal Partito Democratico, non l'hanno fatto i repubblicani, l'ha fatto Clinton, l'ha fatto il come si chiama? Vabbè, insomma, il nome, purtroppo non me lo ricordo a memoria, ma Sumner, che è stato il capo economista di Obama. Yes we can. Ma sì, perché ragazzi, guardate che la Sumner è stato quello che ha dato il colpo. Allora, nel 1929, lo sapete tutti, c'è stato un gran casino negli Stati Uniti e non sono grandi. Nel 1931, credo, vado a memoria, sono un po' stanco, viene emanata una legge che si chiama Steagall Act. È una legge che stabilisce tantissime cose, ma banalmente dice: chi fa la banca commerciale, chi dà i prestiti all'impresa, viva l'impresa, la piccola impresa, questa cosa, cioè, non lo dico perché al Sole 24 Ore sta impresa, ma chi dà i soldi all'impresa per far crescere l'economia reale fa quello. La banca è un intermediario, raccoglie i depositi da noi, questi depositi li dà, li impiega, si chiamano depositi e impieghi. Gli impieghi, quando leggete gli impieghi, vanno giù, non sono gli impiegati, sono come i soldi che noi prestiamo alle banche sono impiegati alle imprese. Vuoi fare l'investimento? Vuoi fare degli investimenti di trading? Fai l'investment banking, e sono cose separate. La banca commerciale non può e non deve fare gli investimenti in azioni, in titoli mobiliari, perché già nel 1929 si erano resi conto che facendo gli investimenti immobiliari venivano utilizzate le risorse del mondo reale, dell'economia reale, per fare attività ad alto rischio. Ed essendo attività ad alto rischio, era come dice la parola stessa, ad alto rischio, c'era l'alto rischio che i ritorni non ci fossero. E se i ritorni non ci fossero, ma tu hai preso i soldi da quelli che dovevano essere dati alle imprese, quando tu questi soldi non ce li hai più, che caspita dai alle imprese? Che cosa, i prestiti si bloccano, si crea una depressione, è uno dei tanti casi per cui si dà luogo a una situazione di difficoltà. E quindi giustamente sotto i democratici di allora, Roosevelt credo, c'è stata questa legge sacrosanta che piano piano è stata nel tempo smantellata. È partito Reagan, ma poi quelli che più di tutti l'hanno voluta fare questo smantellamento sono stati i democratici, Bill Clinton in prima. E nel 1999, prima, nel 2000, prima, poco prima che Bush II arrivasse alla Casa Bianca, l'atto, perché c'era un divieto, diciamo l'ultimo frame per l'unione tra le banche di investimento e le banche commerciali, che era un'operazione tra AIG e un'altra grande società, che non mi ricordo qual era, scusatemi. No, quelle sono altre cose. Comunque, purtroppo i nomi adesso non mi ricordo tutti. Comunque, una grossa fusione chi diede l'ok alla deroga e poi quindi alla possibilità di definitivamente mandare in soffitta questa legge fu Paul Summers. Summers, che è stato il capo economista di Obama fino a 2 anni fa. Ma perché? Perché Wall Street, incasinatissima con la crisi, ha eletto Obama proprio perché sapeva che Obama non avrebbe fatto nulla contro Wall Street. Tant'è vero che una delle grandissime delusioni per me non è come leggo tante Medicare eccetera, è che non ha fatto nulla sulla riforma finanziaria, la riforma che ha fatto il cosiddetto la legge Dodd-Frank, che è la legge quella emanata di riforma di Wall Street, è acqua gettata contro lo scoglio. Cioè non ha fatto nulla, cioè hanno preso alcune cose, hanno inserito appunto un sacco di regole in più, hanno costituito l'ufficio di difesa del consumatore, hanno istituito tutta una serie di organismi che non hanno intaccato uno degli elementi fondanti, cioè dovevano fare il break up della banca di investimento con la banca commerciale. Io sono convinto che questo, per esempio, è un altro tema su cui chi vuole veramente non fare demagogia, ma dire: signori, vogliamo che questa finanza ipertrofica si riduca? Allora, la banca commerciale la separiamo dalle banche di investimento. Se io dico una cosa così, quelli che si riempiono la bocca di queste cose contro la demagogia, che sono stati anche intercettati nel dire abbiamo finalmente la banca, sappiamo anche noi, ti vengono addosso, perché loro credono, no, ve lo dico, perché è così, dicono che io su questo sono molto arrabbiato con questa parte politica che in qualche modo con cui sono più consono, non ho problema a dirlo. Perché? Perché c'è una ignoranza e anche una furbizia che non va al cuore dei problemi. Queste sono le cose che si dovrebbero fare. Così vogliamo un'altra norma antispeculativa vera? Allora, i derivati, per cui abbiamo un altro capitolo enorme. Cos'è un derivato? Ve la spiego così. I future, contratti al futuro. Allora, chi ha studiato diritto sa che già non è che si sono inventati chissà che cosa. Il diritto romano prevedeva gli acquisti e compravendita di cose future. Però io ve la faccio molto più slang e vi dico: nel 1800, negli Stati Uniti, il vaccaro che arrivava a Chicago e voleva vendere le sue vacche, magari arrivava con 200 vacche. Il macellaio che voleva comprare queste vacche ne voleva comprare solo 100. Allora dice: ma io non ho 200, tu ne hai 100. No, io non ne voglio 100. E quindi c'era un problema di... non c'era il software che matchava con altri 300 soggetti, no? E quindi c'era un problema di domanda e offerta, che però era un problema serio, perché il vaccaro le proprie vacche magari era dalla stagione precedente che aveva previsto di portarne tot, e lo stesso macellaio aveva previsto dalla stagione precedente di poter acquistare tot. Allora a un certo punto poi decidono di fare che cosa, anche perché poi succedevano proprio le sparatorie, perché poi in realtà c'erano 10 macellai, un solo vaccaro, si sparava una vicenda, proprio ordine, questione di ordine pubblico, è divertentissimo leggere queste cose qua. E allora dicono: ok, facciamo una cosa, sai che c'è? Per tentare un minimo di regolare la questione, fate degli accordi a monte, cioè facciamo un meccanismo in cui il vaccaro dice: io mi prometto di portarti 100 vacche, il macellaio dice: io mi prometto di comprarne 100. Cosa succedeva? Che però poi il macellaio, quando arrivava lì, faceva il furbo, perché a lui non conveniva di acquistarne 100, allora dice: no, io avevo promesso 100, vabbè, ma ne compro 50. Ma come 50? Io ci avevo mai stato d'accordo? 100. Allora, uno sparatore. Allora cosa parte? L'ho fatta un po' così perché così capite cos'è il concetto di margine. Facciamo una cosa: io non posso pretendere che tu gennaio a marzo mi porti 100 vacche, però tu qua adesso mi metti una bella cauzione e mi dici: io ti do controvalore di 10 vacche, ok? E te le metto qua. L'altro dice: tu che fai il furbo, macellaio, ti conosco, tu qua metti controvalore di 10 vacche, mi date 2 depositi, ok? nasce un centro che gestisce questa roba qua, che sa come si chiama? Lei che mi ha chiesto prima, si chiama stanza di compensazione, settlement, ok? E questa roba qui era la garanzia ai tempi dei contratti futuri, dei futures. Quindi era una cosa a garanzia. Con il meccanismo attuale, con la dematerializzazione degli oggetti, questo è importante, con questo concetto di dematerializzazione, cosa è successo? Che questa garanzia non è più a garanzia di un acquisto, perché con la dematerializzazione, con questo meccanismo qua, chi compra e vende questi tipologie di oggetti non li avrà mai fisicamente, ok? Non, a questi oggetti non gliene frega più niente di comprarsi le vacche, il petrolio, il soggetto sottostante, non gli interessa. A lui interessa operare su queste tipologie di contratti perché sono dei prodotti che hanno dei prezzi che salgono e che scendono, come domanda offerta, come delle azioni. Però cos'è rimasto? Mica sono scemi. È rimasto che tu, concetto di derivato, di leva, non è che mi devi dare i 100, le 100 vacche. È rimasto che tu mi dai il valore di 20 vacche. È rimasto che tu mi dai macellaio il valore di 10 vacche. Cioè è rimasto il concetto che tu puoi muovere valori nominali di 100, 200, 400, 500, con un valore reale che tu dai che è di 5, di 10. Chi diceva prima, ma hai fatto tutto per migliorare. Questo è un esempio. Quella cosa lì è partita. Il mondo dei derivati è meraviglioso come esempio, perché il mondo dei derivati, il concetto di leva era partito con l'idea di dare una garanzia. Adesso la leva è il pericolo della garanzia, perché tu muovi masse enormi di qualunque tipo di sottostante, di azioni, titoli, quello che volete, perché con la dematerializzazione tutto è diventato un sottostante, ok? Dematerializzazione credo che lo sappiate cosa vuol dire, cioè vuol dire quando tu cartolarizzi un oggetto, cioè il mutuo subprime non è null'altro che il mutuo che la banca riceveva, erogava il mutuo al mutuatario. E questo mutuo però era un qualcosa che gli rimaneva lì, no? In pancia. Allora cosa hanno pensato? Io, invece che tenermelo lì in pancia, sai che faccio? Lo trasformo in un titolo che posso negoziare, perché intanto sono convinto che quello lì alla fine del periodo mi restituirà i soldi. Questa è la cartolarizzazione, dematerializzare un oggetto. E quindi il subprime è questa roba qua, era un titolo cartolarizzato, un mutuo cartolarizzato, subprime perché era di basso livello. Poi non sto entrando nel meccanismo di subprime, se no diventa complesso. Però questo è un altro esempio di dove si doveva andare a incidere. Se noi alziamo questo livello di margine, noi cominciamo a creare dei problemi a chi specula. Perché non si parla di queste cose? Che c'entra la Tobin Tax fatta così? Che serve? Ma guardate che sono stato a Londra la settimana scorsa, festeggiano, sono lì che non aspettano altro, ma bravi, Monti, good fellow Monti, good fellow. Prima ti dicevano Berlusconi, what's bunga bunga, tutte queste qua, good fellow. Perché? Perché sanno benissimo che se noi introduciamo queste tassazioni, loro che non ce le hanno, avranno bundi negli scambi. C'è chi ti dice, ma anche Londra ce l'ha la duty stamp, perché poi è un'imposta di bollo questa che voglio introdurre. Sì, peccato che due cose. La prima, che Londra ha ormai è un hub della finanza, cioè quindi sia che ci sia che non ci sia, è il secondo, adesso sta diventando anche Hong Kong, comunque l'area, comunque è il secondo grande hub finanziario, perché uno è New York, l'altro è Londra e adesso sta arrivando il Far East. Però quello che è, e quindi, come dire, in un contesto simile, avere o non avere la duty stamp non è così rilevante. Ma poi la duty stamp la pagano soltanto coloro che stanno legati all'exchange, cioè che stanno al London Stock Exchange. E infatti c'è stato il boom dell'over-the-counter, cioè è il più grande mercato non regolamentato al mondo, la borsa di Londra. E quindi a loro che gli interessa. Anzi, non vedono l'ora che questa Tobin Tax venga introdotta in questo modo. Ecco, questo, questo era un po' il discorso. Poi, non so perché, c'è un'ultima cosa che voglio far vedere. Vi prego, mi fermo. Scusa, ma se non ricordo male, con, quando abbiamo parlato proprio dei mutui subprime e dell'esplosione della crisi, che prima è stata immobiliare, poi è diventata azionaria, finanziaria, ma mi sembra che le banche in realtà si siano trovate nei guai per un eccesso di garanzia. Si sono trovate improvvisamente... Chi è che questa cosa? No, no, sto cercando di argomentare. Si sono trovate improvvisamente... migliaia di mutuatari che gli hanno dato in mano le chiavi della casa perché la casa valeva più del mutuo, valeva meno del mutuo, e questi sì, sono trovati con proprietà immobiliare. Le foreclosure è una cosa successiva, ho capito, ma le dovevano collocare improvvisamente, cioè no, è successo quello proprio che si contava non succedesse, un crash simultaneo di grandi proporzioni. Sì, ma questo è, io non sono, cioè io non le sto dicendo, io non ho dato un giudizio valoriale, No, no, sto solo dicendo, però le case sono beni a garanzia del mutuo, giusto? Sì, però non riesco a capire dove vuole arrivare, cioè... No, quando lei dice che il problema è forse l'avere troppo, una garanzia troppo bassa, no, di queste scommesse, di questi future... Io quello che dico è... Le banche però hanno visto uno del contrario. No, no, no, no, assolutamente no. Cioè, allora, mi sono spiegato male, mi scusi. Facciamo un passo indietro. Perché scoppia la crisi nel 2007? Perché? Il meccanismo che ha dato l'origine alla crisi finanziaria, uno dei meccanismi della crisi finanziaria è questo. Le banche hanno fatto, banche, intendetelo in senso lato, perché poi ci sono le cosiddette sponsored government, cioè Fannie Mae, Freddie Mac, cioè quindi dei soggetti istituzionali finanziari, hanno elargito mutui alla popolazione americana per che questi potessero acquistare una casa. Questi mutui negli Stati Uniti sono definiti con tutta una serie di livelli di affidabilità. Tu Carlini, subprime vuol dire sotto il primo, cioè se sono solo 24 ore, siete 40 milioni di perdite avete fin di quest'anno, tu non me la conti giusta, non sei solvente, però te lo diamo lo stesso. Subprime, alt prime, poi c'è alt prime 1, eccetera, tutta una categoria. Lei, maglione sgargiante, bella barba, lei è solvente, e quindi questo titolo qua vale, sono sicuro che mi restituirà i soldi. La banca cosa fa? Si trova in pancia, un po' due estremi, no? Si trova in pancia il suo mutuo e il mio, ok? E dice, io queste somme di denaro contabilmente le devo mettere come passività, perché sono dei prestiti che ho fatto. Per le regole di contabilità, queste somme di denaro mi riducono il patrimonio attivo e mi riducono quindi la possibilità che io ho di erogare prestiti o di fare quei famosi investimenti come bank, come investment bank. Allora uno ci pensa e dice, cavolo, come faccio a togliermi sta roba? Come faccio a togliermi sto limite e non solo a togliermi sto limite, ma addirittura a guadagnarci? La cartolarizzazione. Ah, genialata. Nel 99-2000 vengono costruiti dei veicoli separati dalle banche per avere una contabilizzazione un po' più favorevole, e si dice, questo mutuo che da un lato mi limita il patrimonio, mi riduce il patrimonio attivo, per cui io posso fare meno prestiti, e dall'altro mi crea comunque anche dei rischi, addirittura lo trasformo in qualcosa che mi dà dei soldi. Perché? Perché io questo mutuo, l'ho stipulato, il signor Carlini Vittorio, eccetera, lo trasformo, lo dematerializzo, lo cartolarizzazione, securitization in americano, e lo faccio diventare un titolo. Questo titolo lo vendo a un terzo soggetto, il quale non solo mi libera di questo limite patrimoniale, ma mi dà dei soldi per questo, per questo mio titolo. Qual è il problema? Che io, dopo che ho fatto il mutuo con lui, con lei, con te, eccetera, e che sono gli alt prime, ho una marea di questi subprime, ho una marea di Carlini. Sti sfigati, chi li vuole? Come faccio io a darli via? Ma io posso fare le famose salsicce. Cioè, cosa hanno pensato? Che attraverso un calcolo, e qui ritorno al discorso, vedo come tutto si lega sempre, matematico, algoritmi, tecnologia, siamo sempre lì, che poi non vi sto alla coppola di Gauss, diventa, cioè diventa complesso, però la gaussiana credo che sappiate cos'è, è una curva campana, no? Loro hanno praticamente calcolato che se polverizzavano questi titoli subprime in tanti diversi prodotti, la probabilità che avvenisse contemporaneamente il fallimento di tutti quei subprime stava nelle code, si dice, cioè aveva una frequenza bassissima. Cioè, cosa voleva dire? Che soltanto in un'ipotesi remota, infinitamente remota, poteva esserci il problema che tutti i titoli subprime contemporaneamente venissero a fallire, quindi a creare dei problemi. E quindi hanno detto: se noi spacchettiamo i mutui subprime in tante tranche diverse, e quindi il mio mutuo finisce in una tranche, il suo mutuo subprime in un'altra, subprime in un'altra, subprime in un'altra, subprime in un'altra, eccetera, e lo stesso, diciamo, oggetto avrà uno 0,5% di subprime. Io sto facendo delle invenzioni, perché non mi sto a spiegare se lo concetto del mezzanino, cioè diventiamo pazzi, però un 5% di mid prime e un 20% di alt prime, ecco allora che quel prodotto lì nuovo, che è l'insieme di tanti mutui, posso venderlo, perché a quel punto le agenzie di rating, con i loro meccanismi di calcolo, mi diranno: ok, quel salsicciotto può essere comprato senza troppo problema. Cosa è successo? E quindi il discorso è che non c'è un eccesso di garanzia. Il discorso è successo che quello che pensavano fosse imprevedibile, il cigno nero, si è concretizzato. Cioè, con il rialzo contestuale dei tassi di interesse che fece la Fed nel 2006, la recessione che in quel momento ci fu, i mutui che erano subprime incominciarono a non essere più pagati. Si fu un rialzo dei tassi, la gente perse il posto e questi mutui incominciarono a non essere più pagati. Con un'aggiunta, questa è una cosa divertente che tutti si dimenticano, perché all'interno di questo meccanismo, ve la dico dopo la recessione, cosa succede? Che contemporaneamente falliscono tante aree familiari. C'è tutta l'area, diciamo, attorno a Milwaukee, c'è tutta l'area attorno in California, attorno a Chicago, tutta la crisi automobilistica manda in crisi tutta la zona dei workers, eccetera. Questi non pagano più le rate. Contemporaneamente vengono a mancare i flussi di cassa di quei prodotti che erano stati venduti come sicuri, e a quel punto le società che li avevano comprate si vedono questi, diciamo, perché poi questi prodotti davano delle cedole, queste cedole non ci sono più. Ma se non ci sono più queste cedole, io come faccio? Devo assolutamente tentare di rientrare, devo vendere. A quel punto però si è innescato un meccanismo in cui, essendoci una corsa al ribasso su questi titoli, nessuno più li voleva acquistare, perché a un certo punto uno li aveva comprati a un prezzo di 100, se li vedeva quotati a 20, e quindi è sparita la liquidità e sono diventati assolutamente non più trattabili. Neanche, cioè, il discorso non è stato neanche di perdere valore, proprio non erano più trattabili, cioè non c'era più mercato per quella roba lì. Quindi di qui i collassi che ci sono stati sulle varie banche, eccetera. Ma lì non è un discorso di eccesso di garanzia, lì è un discorso di minore garanzia. Cioè il fatto che sia stato parcellizzati miliardi di prodotti, se vuole, è un po' lo stesso discorso della leva. Cioè io praticamente una cosa rischiosissima la distribuisco pensando che questo non possa creare casino, ma in realtà il casino c'è, perché nel momento in cui tutti queste cose rischiosissime vengono contestualizzate nello stesso momento, ecco allora che tutti quei panini non hanno più quel valore che avevano, e quindi c'è una svalutazione, ed è proprio il concetto di leva che ha creato questa confusione. Peraltro, su questo anche un'altra cosa che ci tengo a dirvi, perché è stato forse voi non avete seguito, ma è stata una lunghissima polemica, si è detto, vedete, in questo caso erano repubblicani, però vedete, è aiutare i poveri fa male. Public housing. Dare i soldi a chi non... No, io non sto scherzando. Dare i soldi a chi non se lo merita. Mm-hmm. Non ci siamo. Non possiamo... Il capitalismo funziona se tu premi i meritevoli. Gli straccioni dobbiamo buttarli fuori. Il problema è colpa dei poveri. Io ho letto tante di quella roba di polemiche, eccetera. Bush, il capitalismo paternalistico, in realtà non era questo, perché non era capitalismo paternalistico, ma nella loro ignoranza definivano questo elemento capitalismo paternalistico. Non funziona. In realtà il capitalismo paternalistico non funziona per altri motivi. Balle. C'è un bellissimo report del Congresso americano, 600 pagine. È faticosissimo leggerlo, però vi spiega benissimo come funziona. C'erano i cosiddetti predatory lenders, cioè le società di intermediazione, su richiesta delle banche, facevano degli incontri con 300, 400 intermediari e gli specificatamente dicevano: voi dovete andare dai gruppi etnici ispano-americani, dovete andare negli slums, dovete andare nei sobborghi, dovete andare dalla gente che non capisce di finanza, eccetera. Perché? Perché gli dovete vendere questi mutui, cosiddetti ARMs, che erano dei mutui a rate variabili, per cui tu andavi lì e dici: ti do mutuo, non ti preoccupare, paghi 100 euro al mese. Come 100 euro al mese? 100 dollari al mese? Solo 100 dollari al mese, ma come? Figata. Poi c'era la clausola che al primo anno la rata passava da 100 euro a 1000 euro. Guardate che il 30-40% dei subprime era questo, eh? Cioè sono stati i cosiddetti predatori dei mutui, che su indicazione specifica delle banche, perché le banche cosa hanno pensato? Ma se noi riusciamo a polverizzare il rischio, chi se ne frega se questi qua sono dei poveracci? Quindi andiamoli a cercare. C'è stata proprio una campagna a tappeto tra il 2001 e il 2006-2007, pazzesca su questa cosa qua, di cui si parla pochissimo. Ma questo report del Congresso americano, cioè, quindi non una cosa mia, proprio fatta dal congresso americano è la cosa di Angelidis, che tra l'altro i repubblicani non hanno ovviamente sottoscritto, spiega dettagliatamente come ci fosse la volontà di andare a individuare questi soggetti che si sapeva non avrebbero potuto pagare, perché se aveva questa fiducia cieca, secondo me non c'era neanche quella, cioè secondo me si sapeva benissimo che non funzionava, ma si è voluto farlo perché intanto si pensava di far soldi. Diamo il beneficio del dubbio. Perché c'era questa fiducia cieca in tutti questi meccanismi di algoritmi sofisticati che stabilivano le quantità di subprime da inserire dentro i CDO, famosi collateralized debt obligation, per poter garantire comunque i flussi di cassa. Questo non ha funzionato. Allora, questo è un esempio del perché è successo questo casino e del perché in realtà non c'è stato un eccesso di garanzia. In realtà è stato di nuovo, se volete, un rischio, un voler prendersi una leva, e di nuovo è stato un discorso di dire chi è che l'ha fatto? Le ha fatto le banche di investimento. Se noi avessimo avuto una separazione tra le banche di investimento e le banche commerciali, forse un piccolo margine, di una piccola barriera ci sarebbe stata. In realtà c'è stata una trasmigrazione, un effetto onda su tutto, e quindi anche questo ha provocato il caos. Questo è un altro esempio. Invece che andare a fare la Tobin Tax, separiamo le banche di investimento dalle banche commerciali, alziamo i margini sui derivati, torniamo alla concentrazione sugli scambi. Queste sono cose che secondo me sarebbero veramente importanti da fare.